La scuola femminista è uno dei nostri 9 progetti che abbiamo elaborato quest'anno, elaborato anche durante il percorso di coprogettazione che ha portato al patto di collaborazione con il Comune di Bologna, con le associazioni LGBT che, come noi per esempio, hanno inserito sia dei progetti nuovi come questo, ma anche la maggioranza direi dei nostri 9 progetti, azioni, cose su cui lavoriamo quotidianamente, quali per esempio l'accoglienza, la salute, la scuola, le giovani, lavorare sulle discriminazioni contro gli stereotipi di genere, lavorare per esempio anche sulla violenza di genere, la violenza maschile sulle donne, la violenza all'interno delle relazioni lesbiche, che pure è un nostro progetto molto importante. E questo progetto qua vuole essere anche un progetto proprio aperto alla cittadinanza, alla città e soprattutto alle relazioni, per costruire e riscoprire delle relazioni tra le donne, con le donne e nelle associazioni, nei gruppi femministi e transfemministi, di lesbiche, e in questo modo noi sappiamo qual è il percorso ma non sappiamo dove ci porterà in realtà, perché quest'anno il tema per esempio è l'ecofemminismo. Lavoriamo in collaborazione con l'associazione Orlando, il centro delle donne, ma siamo aperte a continuare ad essere, come dire, in mezzo a questo stimolo continuo che vorremmo fosse proprio per tutte le donne, e per continuare anche con nuove relazioni a costruire una rete in cui si possa continuare tutti gli anni a fare un progetto diverso, ecco. Dunque, diceva, quest'anno il tema è quello dell'ecofemminismo. Sì. Ci può dire più nello specifico di che cosa si tratta e a cosa è dovuta questa scelta? Allora, la scelta è dovuta ad un fatto esclusivamente proprio di desiderio di conoscere questo tema, perché al Circolo di Bologna e alle socie del Circolo di Bologna, soprattutto le socie più giovani, che peraltro sono la maggioranza, perché è un circolo dove c'è un grande, come dire, passaggio generazionale, e questo è molto stimolante per me, che non sono giovanissima. Era proprio un argomento, un tema che interessava. Ci interessa perché noi comunque lavoriamo nell'ottica del dialogo tra, come dire, le idee, i desideri, i percorsi femministi, tant'è vero che la scuola si chiama proprio scuola femminista, femminismi in dialogo. E quindi intrecciare vuol dire anche fare un percorso, come si dice, intersezionale, e cioè le tematiche che si incrociano proprio nell'affrontare il tema del femminismo. L'ecologia, l'ecologismo, l'ambiente è sicuramente un tema nodale per tutti e per tutte, e quindi l'ecofemminismo sta diventando una corrente di pensiero dove agiscono tante femministe che elaborano proprio un percorso di conoscenze e anche di attività, di cose concrete da fare, molto molto importante. Ricordiamo agli ascoltatori che il progetto avrà inizio l'11 e 12 novembre presso il Centro delle Donne in via del Piombo 5.